Dire che devi mettere. No, allora è vero. Metto, ho visto penso. Bene la seconda canzone, esatto, che tu. Esatto. No, allora, ragazzi, stiamo iniziando l'onda in onda. Io mi dissocio fin da subito della. Non è neanche partita la sigla. Quindi per la scaletta. Non è vero che non è partita la sigla. Sì, è partita da un quarto. Ma se l'ho sentita mentre ero lì. Tu non la sentivo lì. Ma io ero in macchina e l'ho sentita. Va bene. Comunque, io ho visto già il secondo pezzo di scaletta e mi dissocio fin da ora. Intanto ci ascoltiamo Jesse J con Price Tag. Grande. Seconda parte di questo postribolo radiofonico. Ma non ho capito perché torna lui in diretta a parlare dopo che finisce il pezzo. Oh! A noi non ce ne frega una mazza se torna. Ok, dicevamo, nella seconda parte di questo postribolo radiofonico. Vabbè, non ti preoccupare, la pagherai molto cara, ragazzi. Ma fallo finire, poverino. Dicevo, nella seconda parte di questo postribolo radiofonico vi faremo ascoltare un bellissimo servizio che ho realizzato col Kaiser. Col Kaiser! No, no, perché la raccolta differenziata porta a porta in questa città ha compiuto un mese. Ho sentito di porta a porta. Allora, io stasera, scusa, c'è la sigla di Via Col Vento? Scusa, no, non ce l'ho. No, manda subito sto matto. Non ce l'ho. Mi spuntano i nei. Dai, parla, per favore. Non ce l'ho. Io ti prego, cercava subito questo matto. Allora abbiamo Andrea Massaro. Dunque, cioè abbiamo un plastico del pisello di Andrea Massaro. Il plastico? Il plastico. Ho capito. Il plastico. Io vorrei capire una cosa. Quel cretino non so che vorrei capire una cosa. Film perché nella nostra puntata il sottofondo deve essere diverso da quello che ho portato e deve essere così basso? No, ma soprattutto. Ora. Oh, sì, ma così dobbiamo urlare. Vabbè, no, comunque, ma c'è una metà. È una brutta checca vergognosa. Mi hai tolto le prove di bocca. Ma comunque, senti una cosa, possiamo invitare gli ascoltatori ad ascoltarci fino a quando Totò non manderà quell'orribile servizio sulla raccolta? No, ma non è vero, invece, perché c'è poco, c'è la pubblicità anche qua. Invece è interessante, perché insomma è vero, non è in tutta Termini, se non sbaglio, la raccolta differenziata porta a porta, lo do, correggimi se sbaglio. No, nel centro storico e in via in Porta Palermo, cioè fino a Porta Palermo. Non ci credo. E in estate speriamo che venga intensificata, perché l'umido è raccolto ogni 2 settimane, insomma, non è. No, tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e sabato, se non mi sbaglio, una cosa del genere. Cioè, se io sono corso da Palermo per venire a parlare raccolta differenziata, no, con insomma, tutto il rispetto per la raccolta differenziata. Ma no, però quei 5 minuti di istruzioni per l'uso, certo, è importante. No, è giustissimo. Senti Andrea, hai un argomento di cui parlare prima della pubblicità? Allora, io vorrei dirti che oggi è il 6 aprile. Ma quindi infatti più tardi ci collegheremo sicuramente con lui, tutti oggi, lo aspettano oggi, anche perché oggi lui non c'è andato perché ha detto che era una fase tecnica preparatoria, quindi poteva fregare di meno. Magari stava organizzando già un altro bunga bunga, noi non lo sappiamo, però più tardi lo intervisteremo. Mi ricordo un altro processo, però vabbè, non è no, ma in quel caso sei stato tu a non presentarti. Vabbè, andiamo avanti. È bello quando si mescola la vita di tutti i giorni alla vita politica italiana. Va bene, facciamo una cosa. Intanto ricordiamo alle persone che ci stanno scrivendo il nostro profilo Facebook: se non vi si apre il player dovete collegarvi su www.radiocentrale.it o politeia.it e cliccare poi in alto su ascoltaci in radio. Non parlate insieme: www.politeia.it. Esatto. Parlare insieme. No, vabbè, però l'abbiamo detto in coro. Il coro è diverso da insieme. Era abbastanza coordinato. Insieme in coro c'è diverso. No, sono due cose diverse. Volevo segnalare una cosa che sto leggendo qui sulla pagina 64 della Repubblica del mercoledì 6 aprile 2011. Pubblicità! Addio. No, dico, tra quanto? Fai pubblicità. Tra quanto? No, è la fonte. Che c'è mi pare che c'è la pubblicità. È la fonte. La fonte dei desideri. La fonte Repubblica, riporto che i grandi Cipri e Maresco, con il loro stile grottesco, ha fatto anche la rima, usciranno in DVD prodotti da Rai 3. Ma che minchia di rima è Cipri e Maresco grottesco? Ah, giusto, ragione. Vabbè. Ecco, questo è ecco qui, bravissimo. Questi sono i momenti in cui diventa: ehi, ma ci stiamo collegando con le radio californiane. Non è venuto a trovarci stavolta. No, non è venuto a trovarci perché, siccome non ho sentito la sigla, ho detto vabbè, il DJ non è intervenuto. Non ci sarà. È un cretino totale. Esatto. È un cretino totale. Senti, quanto abbiamo? 8 minuti. Ah, vabbè, allora subito guarda quanti argomenti che abbiamo. Cioè, io ti invito a guardare la scaletta. Naturalmente rimarremo insieme ai nostri amici e ascoltatori fino alle ore 21 dopo la pubblicità, quindi insomma, ovviamente purtroppo per loro. Senti Andrea, tu volevi dirci qualcosa? Sì, volevo dirti che c'è notizia Anza che ha dichiarato che oggi Berlusconi in aula era più alto che presente. Va bene, niente, purtroppo io non dovrei più chiedergli se ha notizia, perché veramente ora ricordo perché non parlavo mai in questa trasmissione. Infatti, perché non continuare a... Infatti. Ah, ma tu l'hai saputa quella invece della doppia vita del poliziotto sfruttatore? No. Non l'hai sentita? Praticamente questo qui andava dalle, come dire, le lucciole, sai? Ah, le lucciole, le zona, battone. Beh, che sei raffinata. È bello andare a questa poesia. Sai, quel romanticismo, quella cosa all'antica, quella verve ormai dimenticata, l'uomo, sì, l'uomo moderno. Allora, le capinere, parliamo. Le capinere, quindi andiamo dalle capinere. Tu sai di chi è storia di una capinera? Dai, parliamo. Le moderne bocche di Silenzio, perché ti ho chiesto di chi è storia di una capinera. Non scriverlo su Google. Dimmi di chi è storia di una capinera. Non lo so, però posso dirti che la bella canzone di una volta che parla delle capinere è Dire le Sere Tese. Ma e perché c'è? Non passiamo la bella canzone di una volta? Perché non ce l'ho. Ah, che bello, gli ascoltatori già erano contenti e io vengo sbocciato così clamorosamente. Niente, c'era questo simpaticissimo poliziotto e che lui dice averlo fatto solo perché voleva togliere le ragazze dalla strada, ma andava poi dalle ragazze invece a dirgli: segui i miei consigli che la farai più piccolo. E lui gli ha detto se volevano il ciupa ciupa. Come? Eccola qua. Allora, vediamo se abbiamo in linea il consigliere, la fata. Mettila un po' più. Pronto? Oh. Pronto? Mi piace, ciupa ciupa. Ehi, consigliere, la fata. Bentornato a Radio Centrale. Stavo facendo un piccolissimo sortileggio. Eccomi. Ah, dica, sa, prova. Ci consigliere, prova. La sentiamo. L'ultima volta, insomma, non ci ha querelato dopo che l'abbiamo. A parte che si dice querelare, ho sentito uno scambio di sillabe che non era atteso. Ma vedo che dietro faccia caso. Dietro il vetro mi invitano a controllare. Ma lei è al telefono, mi scusi. No, c'ho la video, telefonata. La video telefonata non abbiamo, però. Non avete la video telefonata? Siamo su internet. Lei invece è su YouTube, consigliere. Cioè, ex consigliere. Ricordiamo. E secondo lei io mi dovevo vergognare perché sono su YouTube? No, ma infatti l'abbiamo detto. No, lei mi sta dicendo che mi devo vergognare perché sono su YouTube. No, consigliere, noi abbiamo detto che l'onda in onda è fan di Carmelo. E comunque guarda che ho qualche ragazza da presentare pure a lei. Anche a noi. Che davvero sta dicendo. Ah sì? Sì. Addirittura, che gradisce Chupa Chupa gradisce pure cose che vanno al di là di ogni immaginazione. Guarda, presente Blade Runner? Sì. Questi si chiamano Blade Bomber. Addirittura. Esatto. Va bene, io credo che siamo ancora in fascia protetta. Possiamo ascoltare. No, ma noi ci proteggiamo, Io lo devo dire a tutti. No, io mi proteggo. Condom. Ma noi abbiamo visto con i boxer e basta. Vabbè, l'avevo tolto, l'avevo sfilato via. È detto la calzetta dell'amore. Appena finisci vola via. Così. Va bene. Torna a campo felice. Arrivederci, consigliere, ci ascoltiamo nelle nostre tese. La bella canzone di una volta. Ne abbiamo fatte delle belle, ricordo per esempio di un mio amico che non voleva andare a capinere, l'abbiamo portato con la forza ed ha goduto nell'oscurità e ci ringrazia ancora adesso. Mi manca la canzone d'altri tempi, ingenua e piena di malizie, che cementava le amicizie e poi si andava tutti a capinere. Invece la canzone d'oggigiorno la fanno utilizzando i macchinari, non te la levi più ritorno la sua casa. E siamo tornati dopo aver ascoltato la bella canzone di una volta con l'intervento del consigliere La Fata, che ormai è per la seconda volta ospite ai nostri telefoni. Ricordiamo a tutti che sempre, se volete querelarci oppure volete riascoltare, ma anche se vogliono telefonarci, perché non ci chiama nessuno. Vero, allora diamo il numero di telefono: 091 811 0089. No, ho sbagliato, giusto? Ma è un cretino. No, vero, perché io ero fermo. Non puoi chiudere il microfono. Ero fermo al vecchio numero che ora è diventato di Totò. Però vabbè, non lo dico. Non lo diciamo. Ora, dai, diciamo. Ora la gente chiama. Il vecchio numero era, tra l'altro, 55. È una checca malata. Cos'era? Qual era il numero? Non mi viene. Era un numero che sembrava un hotline. Io credo di averlo ancora nel telefonino. Lo diamo dopo la pubblicità. Lui ci alza. E siamo collegati dalla palestra. Oggi ci colleghiamo con una palestra di Termini. Addirittura? Sì. Addirittura. Va bene. Vedi che qua succede un casino se fai il nome di una palestra. No, è una palestra nuovissima, quindi non c'è problema di fare casini. Va bene, senti Rota, quanto manca per la pubblicità? Mancano 4 minuti. Va bene, abbiamo il tempo di dare una news interessante. Non so se hai sentito che c'è stato un bellissimo arresto a Palermo. Riduce immigrato in schiavitù, arrestato un avvocato civilista. Stai scherzando? No, è vero. Sì. Cioè lo schiavizzava in casa. Esatto, no, lo schiavizzava in una campagna. E allora ci collegheremo anche con lo schiavizzato. Lo schiavizzato. No, allora, il giovane Sink. Credo. Aspetta, sì, che lo cerco perché devo, sì, per collegarci dopo. Totò, cerca Sink sull'elenco. Sì. Certo. Appena arrivato. Non puoi dire, certo. Sono le pagine gialle. Certo. No, le pagine nere. Scusa. Scusate la testa. È tutto dal vivo. Vai. Insomma, appena arrivato dall'India dopo un lunghissimo e travagliato viaggio, era sicuro di aver trovato buon lavoro a Partinico nella fattoria di uno stimato avvocato civilista, Fabio Tringali. La paga concordata gli era sembrata anche buona, 500 euro al mese per accudire alcuni animali. Beh, non male. Il giovane sperava di ottenere. Tua madre non prende nulla e accudisce te. Esatto, quindi figurati. Era un'ottima paga. Però è un animale solo. Sì. E insomma, sembrava. Credeva che. Ma che cosa fai? Un attimo, no, blocchiamo la notizia. Se tu conoscessi il filmato, magari dice lo mando perché lo conosco. Lui scrive risate, cercando di mettere delle risate finte, e trova un filmato di gente che si spacca la testa sulle mani. Non ha senso, Toto, ti prego, ferma questo scempio. Risate a catena. Ma che sta succedendo? Allora, voi capite che Totò dietro il vetro, perché la gente che non ci vede, non lo sa, magari ci ascoltano in macchina. Il regista di questa trasmissione, di questo post, ascoltano in macchina, non hanno più niente da fare oggi. Veramente triste. Sì, cioè, sta mettendo un filmato famoso, tra l'altro, di un bimbo che si ammazza le risate e le reazioni delle persone che guardano questo video, per metterti il buon umore. E in effetti è difficilissimo non ridere, soprattutto per la risata di questo qui di colore, sentilo. Cioè, non ce la fai a stare. Che magari è fratello di Sink e ci ricorderebbe. Totò, potresti abbassare adesso il volume, grazie. Questa stronzata. Prego, Andrea. No, va bene, volevo dire appunto che. E alla fine come sei uscito? Sono uscito che il. Gli proponeva 500 euro. Sì, più il permesso di soggiorno, ma il. Insomma, questo. Lavoratore indiano è andato a fare la denuncia dai carabinieri, ma l'avvocato sì, civilista, ma in sottofondo l'indiano che ride, la vuoi smettere, Totò? No, ma è divertente questa notizia. Ho capito, ma fai parlare Andrea. È divertente, un uomo ridotto in schiavitù. Sta dicendo che non gliene frega niente. Non gliene frega niente. È un cretino. Cioè, ti prego, Totò, potresti togliere questa cosa. Ma scusa, sentiamo almeno la risata di Totò. Leva quella e fai sentire la tua. No, no, allora, chiunque ci stia ascoltando e può chiamarci all'811-0089, lo faccia per dire se quello che sta avvenendo non è uno schifo. Allora, no, io voglio condividere questo video sul nostro profilo Facebook. Ricordiamo a tutti quelli che vogliono vedere questo schifo, questo schifo. E scrivere anche qualcosa in bacheca: www.facebook.com/onda in onda, senza la L. Non ve lo facciamo cercare, ve lo facciamo vedere. Attenzione, sento che era partito così improvvisamente. Ecco, sentiamo la notizia triste che stavi raccontando. No, perché? No. Catastrofe Inter. A San Siro, ecco. Lo Schalke vince 5-2. Mucino negli Stati Uniti. Ma basta drammi, giro una commedia. Nessuno ci crede e gli sparano. Lì. Vabbè, io non ci credo. Continua. Continua, per favore. Maroni. Sti cazzi. Ovviamente ci sappiamo i Maroni, avremmo. Accordo fatto. Tunisi fermerà gli immigrati. Cioè, ti rendi conto che noi stiamo parlando di. No, è una notizia veramente eccezionale. Vai avanti, continua. Sam Wojtyła conquista un posto nel calendario. Chi è? Come chi? Ah, porco demonio. No, ho avuto paura a mettermi a. No. Non ci credo che. Stanno morendo tutti. Cioè, guarda, è un trionfo di radio totalmente. Come dire? Dalla scorsa puntata ad ora c'è stato un picco discendente di share. Ci ascoltavano tutti, sì, vabbè, che finita. Dopo. Senti, quanti minuti abbiamo prima che ci salviamo da questo scempio? Ma che sta. Ma perché oggi sta ragazzi, facendo? Ragazzi, oggi non ci sta ascoltando sicuramente nessuno. Totò non ha voglia. È un cretino. Comunque, quanto abbiamo? Prego, si accomodi. Come? Quanto abbiamo? Tre minuti, vabbè, facciamo. No, perché c'è stato un ritardo sulla pubblicità per questo. Allora, va bene, io direi di lanciare un pezzo, il prossimo pezzo, esatto. Così facciamo stare zitto. E allora lanciamo. Lanciamo, ve lo dico io. Lanciamo Le donne lo sanno di Ligabue. Bravo, perché? Sono d'accordo. La dedico a tutte le donne che sono all'ascolto. Sarà una stronzata, ovviamente. Come pioggia tu piangerai, foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai, ai, ai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una vita ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, ed eccoci tornati in onda dopo questa dolcissima Arriverà, la mia canzone preferita di Emma e Imodà, presentata a Sanremo 2011, è giunta, se non sbaglio, tipo nelle prime posizioni, non ricordo, Andrea. Non ricordo neanche io, ma so che il cognome di Emma era Mino. No, no, vabbè. Alza il sottofondo, ti prego. Ehi, il DJ che ti mixa le feste. Siamo collegati sempre con Radio Centrale FM Italia. Ricordiamo un attimo che ci potete seguire su www.radiocentrale.it o su www.politeia.it o su facebook.com/onda in onda. Ma nei primi due potete anche guardarci tramite webcam in diretta. Toto, ti invito sempre in diretta. Noi siamo in diretta, noi lavoriamo in diretta. Per favore stacca quella cosa lì, abbassa un po' il sottofondo, perché stavolta altro. Ci vogliamo, sì, un caffè. Ci vogliamo spostare più vicini a noi. Abbiamo, guarda Totò, io abbassa un attimo. Puoi mettere una musica tipo l'Internazionale, se puoi. Grazie. Intanto che Totò cerca l'Internazionale, sempre molto ricettivo, come si suol dire. Allora, vogliamo parlare, caro Andrea, non so se tu sai che avremo un ospite abbastanza importante stasera, sconosciuto ai più, ma non per questo meno importante, di nomi altisonanti che ci vengono a trovare qui in radio. E allora io farei partire il sottofondo perché stiamo per presentarvi... Che versione è? Ti prego, non puoi folgorarmi così. Allora è proprio così, cioè non ci puoi fare niente. Vabbè, allora, nell'attesa di un... Ecco. Vabbè, mentre c'è... Compagni, avanti il gran partito. Ecco, perfetto. Tieni un po' più basso. Abbiamo l'onore e l'onere di avere qui, direttamente negli studi di Radio Centrale FM Italia, lo vedo già lì che si prepara, guardatelo, Totò, invito anche te a guardarlo, un ospite illustre. Abbiamo qui un ragazzo che è il futuro del comunismo in Italia, altro che Nicky Vendola, mi verrebbe a dire. Diamo il benvenuto, con le lacrime agli occhi. Bravo, diamo il benvenuto a Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio. Ciao ragazzi, ciao, io sono Fidelio e non ti ho chiesto niente, già sei partito a mille. Che ragazzi, capisco che questo ma è un spazio, problema nasale. Questo spazio è dedicato, parlare, dedicato a tutti come la radio, perché nell'etere noi esprimiamo la nostra volontà di essere. E io faccio parte del collettivo universitario Giancarlo Mattello. Mamma mia, è commovente anche come Giancarlo dice. Mattello. No, Mattello. No, comunque vabbè, sarebbe Mattello con un T. No, è Mattello. Non cominciamo con queste battute, perché Giancarlo Mattello è stato un bravissimo compagno. Che scusa, si è impegnato. Scusa, che Fidelio, io vorrei capire perché il Gaudeamus. Stai zitto. Comunque, vai, prego. Stai zitto. Io vorrei capire perché questo spazio pubblico dell'etere deve essere occupato da persone che comunque non si interessano ai problemi sociali, come Giancarlo Mattello, appunto, stavo dicendo, del collettivo di cui faccio parte, che si è impegnato tantissimo nella lotta universitaria, è stato ammazzato a colpi di bastonate da agenti in borghese. È per questo che avete il naso otturato. Agenti in borghese, esatto. L'hanno preso sul naso. Agenti in borghese della polizia spagnola mentre si trovava all'estero. Ma non si trovava in Spagna, questa è la cosa che ci ha fatto capire che Giancarlo Mattello era veramente un compagno. Ecco, Fidelio, vedo che sei aperto al dialogo, cioè fai dei monologhi incredibili. Volevo chiederti, quando hai cominciato la tua attiva vita politica? Allora, tu dove sei intanto? Io sono di Regalcioffoli. Noi, grandissimo centro comunista, assolutamente, cioè, dove tutto nacque. A Regalcioffoli, in grandissima città, una grandissima città dove città? Il comunismo si esprime è ancora. Una frazione. Non è una frazione, ci ha messo pure un quarto, ha messo qualcuno sul benvenuti a. Non capite l'internazionalità di Regalcioffoli. Noi Regalcioffoli esprimiamo tutte le culture. Ma a Regalcioffoli non c'era così, l'osservatorio. Ecco, Fidelio, non c'è un osservatorio. Ma poi come ti chiami, Fidelio? Fidelio Cusimano. Cusimano. No, no, è che si mangia la I per il problema al naso, per le bastonate. Sì, ragazzi. Fidelio, ma tu stai registrando la puntata, vero? Stiamo registrando tutto noi del collettivo Giancarlo Mattello. E cosa avete organizzato ultimamente? No, arriviamo al dunque. Noi ti stiamo ospitando perché tu, a quanto pare, hai organizzato una grande iniziativa nella tua metropoli. A Regalcioffoli, noi nelle varie sale che ci abbiamo a disposizione, noi comunisti del collettivo Giancarlo Mattello, abbiamo organizzato un cineforum, una cosa innovativa che non si vedeva da tempo. È un cineforum. Perché l'Italia aveva bisogno e Regalcioffoli l'ha fornito a tutti. Queste sono le risate del pubblico al cineforum. Comunque, no, prego. Al cineforum non si ride perché. Ah, scusa, abbassa. Totò, leva tutto. Leva anche l'internazionale. Noi proiettiamo. Perché dei non film si ride? Scusa, perché non si ride? Perché puoi mettere la musica triste di prima? Perché la società. Aspetta, prima di rispondere. Sì, ma voi dovete fare parlare del collettivo. Prego. La società è malata. Piano, ascolta la musica. Goditela. Ma che devi ascoltare? Goditela. Ma come, Fidelio, un ragazzo sensibile dei nostri giorni. Fidelio Cusimano, del collettivo. Va bene, ho capito, Fidelio. Basta. Prendi la carta d'identità, prego, Fidelio. No, dicevo appunto che noi del collettivo Giancarlo Mattello abbiamo organizzato questa iniziativa importante a Regalcioffoli. Un cineforum. Dal titolo, il primo film che proiettate qual è? Dal titolo Cineforum di Regalcioffoli del collettivo Giancarlo Mattello. È il titolo del film? Noi oggi proiettiamo questa sera. Sera, quindi per chi volesse andare si trova vicino a Regalcioffoli. Noi proiettiamo un film bellissimo che è stato premiato dalla critica tantissimo e si chiama I proletari all'IKEA. Ah, I proletari all'IKEA. E come mai questo titolo? Totò, hai sentito? I proletari all'IKEA è un titolo studiato e realizzato e messo in atto dal regista famosissimo Saverio Brambilla. Ah, Saverio Brambilla, parente credo della famosa. È parente della famosa Vittoria? No, è parente della contessa Serbelloni Mazzanti Vendalmare. La famosa. E come mai il parente di una contessa? La famosa scelto Baldracca. Quella della Marina. Come mai il parente di una contessa ha scelto questa strada? Perché però non mi puoi mettere allarmi. dietro per la par condicio. Però vedi, non se ne era accorto mentre parlo. Fidelio, parla Fidelio così male del vabbè Fidelio, ti ringraziamo per esserci stato. Io voglio parlare del film di proprietario all'Ikea. Va bene, va bene, ne parleremo, ne parleremo dopo che lo proiettete, ne parleremo. Allora io posso dirvi che rimango con voi tutta la puntata e poi parliamo ah del perfetto film di proprietario all'Ikea, perché è veramente interessante. Va bene, ascoltiamo Allarmi. No, scusami, come Allarmi no? Cioè, hai parlato per 20 minuti, Fidelio. Ah, scusa, Andrea, non ti ho riconosciuto. Scusate, Andrea, c'è stato Fidelio. Ho sentito in bagno. No, no, io non ero in bagno, ero qui. Affascinato dalla, insomma, dalla prosopopea con cui si è presentato Fidelio. Però dico, possiamo anche evitare di mettere Tecnobalilla. Tecnobalilla. No, non ho idea di chi siano i Tecnobalilla. Ma l'hai sentito, tra l'altro, che c'è stata una proposta del, di un deputato che volta a Oh, Totò, basta. Sì. Vai, cioè, volta, cioè, basta. A eliminare dalla Costituzione la disposizione 13, se non sbaglio, quella che istituisce il reato di apologia del fascismo. Solamente questo deputato non si è, ha motivato questa proposta di legge dicendo che la disposizione era transitoria. Era transitoria e quindi poteva essere tolta, offendendo così la memoria storica di chi appunto ha creato la, insomma, dei padri costituenti. Il fatto è che questo deputato non si è reso conto che la disposizione non è transitoria ma è finale, quindi è veramente interessante. Ci vorrebbe comunque un... E io direi che per parlare attenzione di questo dovremmo chiamare, esatto, il presidente della Repubblica Italiana, che ti ha preceduto proprio. Che mi ha preceduto, perché ha sentito, lui ci ascolta sempre da ormai da 3 anni. Pronto? Pronto? Pronto? Presidente, vediamo che informa. Presidente Giorgio Napolitano. Presidente, i festeggiamenti sono finiti, quindi ora ha gradito, non so. Con questa storia di festeggiamenti ci avete veramente fatto le palle come, no, come i funghi trifolati. Ma come, lei è diventato l'uomo più amato dagli italiani. Veramente, quella è sua sorella nella cucina scavolina. No, le garantisco che lei, presidente della Repubblica Italiana, è diventato l'uomo più amato, anche perché è l'unico membro. Non capisco che tiene l'altro conto. No, ha capito la battuta dopo. No, non l'ha proprio capito. Comunque, prego. Comunque dico, lei è diventato il membro dello Stato più amato degli italiani. No. Come no? Membro. No, no, no. Non è un allora, membro. Se ce l'ha, se lo tiene nelle sue cose, no? Nelle sue mutande. Presidente, io, ma per carità, ma non mi permetterei mai. Io non sono membro di niente. Come membro di niente? Non lei sono lei è il primo, l'uomo più importante dello Stato italiano. Addirittura. Beh, sì, ma lei ha bisogno di... È la prima carica dello Stato. Lei secondo me ha bisogno di fidanzamenti per ma la no, rabbia. Ma presidente... E mi sa leccare il deretano. Ma no, presidente, ma è la verità. Lo ammettiamo tutti, anche Andrea che è comunista, dico, lo ammette. Esatto, ma a proposito, presidente, non so se sentite, abbiamo ospitato in radio. No, no, io vorrei proprio parlare con Fidelio, visto che restava sì, in è rimasto... Un attimo, gli diamo il microfono. Aspetta, Fidelio! Fidelio! Chiamatelo subito perché tengo... Ecco, sì, stava andando via un attimo, l'abbiamo chiamato. Fidelio, presto, dai, vieni, c'è il Presidente della Repubblica! Eccomi, ragazzi, scusate, ecco, sono Fidelio. Presidente della Repubblica. Sono veramente onorato. Lei, io sono Fidelio Cusimano del collettivo Giancarlo Mattello. Ho già capito. Io la stimo tantissimo perché lei rappresenta la storia partigiana dei partigiani che Giancarlo Mattello ricorda. Io non riesco a parlare, presidente, ma io vorrei dirle, Giancarlo Mattello. Io vorrei dire che lei mi ha già cagato cazzo. Io sono del suo fare una domanda, ora la batto, perché io sono stato partigiano e invece di fare Cineforum usciva la mitraglietta e se c'era da sparare sparava per il bene della nazione. Quei cretini che si fanno il rasta capelle, manco se lavano, e fanno i cineforum e riempiono la bocca, sono comunista, mi stanno tutti in capo Vesuvio. Presidente, in capo Vesuvio. Presidente, sono contento che lei è d'accordo con noi del collettivo Giancarlo Mattello. Ma c'è un modo per spegnere questo, perché insomma il collettivo vieni con me Fidelio, portate via. Ragazzi, scusate, ma prossimo presidente, ho preso la baionetta perché non ce la faceva più. Non ce la faceva più. Non la facevo così. Abbiamo risolto, presidente. Alterante, diciamo. Aspetti, che c'è mia moglie al telefono. Attenzione. Può abbassare un attimo la suoneria? Sì, assolutamente, certo. Anche perché se risponde la suoneria se ne va. Pronto? Come dici? Az. Ho capito. C'è un problema. Sì. Presidente. Mia moglie mi ha appena detto che Fidelio era un nipote sconosciuto a me medesimo. Addirittura, presidente. Addirittura, presidente. Era nato... Ma quindi lei ha origini regalgioffolese? Regalcio. Mi verrebbe da dirle un paio di regalciuffoli. Mi scusi. Ma appena detto che era un nostro parente, io non sapevo niente. Addirittura Fidelio Cosimano, parente del presidente della Repubblica Italiana. Ma lo sa perché piango? No. Perché l'avrei potuto eliminare prima se me l'avessero presentato quando era Piccirillo. Buona giornata. Grazie, presidente. Buona giornata, noi ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che sono i Porcelain Black con This World Rock and Roll Looks Like. Stay tuned. Non ho capito l'ultima parola. Però mi sa che l'hai trovato il pezzo. Microphone check, 1, 2. Yeah, yeah, it's Porcelain, baby, and this is what rock and roll looks like. Porcella in Black con This What Rock and Roll Looks Like. Un cesso di pezzo, cioè, sì, un cesso di pezzo, però incuriosisce. Sì, si incuriosisce e dice: ma perché curiosamente abbiamo messo questa cagata? L'avete visto questa questa ragazza, diciamo? No, è visto che sembra Courtney Love. Esatto, e infatti ha qualcosa che richiama Courtney Love, cioè l'ex di Kurt Cobain, ma assomiglia un pochettino con le movenze a Lady Gaga. Andrea, però scusa, un po' a Kesha. Noi siamo un programma razional popolare, tu non puoi parlare di Courtney Love e Kurt Cobain come se fossero i più famosi al mondo. C'è gente che non sa chi sono, io lo devi dire. Kurt Cobain appunto è l'ex cantante dei Nirvana, detto dai vestiti Ser Fucilense, perché si è sparato un colpo di fucile in bocca, roba. Ma Totò, lo finiamo con questo video? Totò, veramente? Cioè, è una puntata che cioè, basta mettere punti. Che facevi ridere? Ma no, ho capito, ma non lo mettere. Ridere, e invece Courtney Love è la Love è sua moglie. L'ex, vabbè, ex moglie, l'ex che moglie è crepato. Lui insomma, è morto. Si però. È sparato clamorosamente nel 94. Ma non c'è da ridere, è una persona che soffriva, Totò. Dai, Totò, dimmi tre canzoni famose dei Nirvana. Soffriva di che? Di depressione, suppongo. Ah, ecco. Dimmi ecco. Tre canzoni famose dei Nirvana, dai, Totò. Ma io Nirvana non li cago di strisce. Ma ho capito, no, ma per fama. Ma in così, radio non per... puoi dire. Ma non li cago di strisce. Cioè, Smells Like Teen Spirit. Mai messo un pezzo di Nirvana. Vabbè, me ne vanto. E se ne vanto. Ah, infatti non c'ha tutti i torti. Vabbè. Dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo. Non lo so, la vabbè, ha il suo pubblico che ride a richiesta, insomma, cioè anzi a comando. Tra l'altro io questo video l'ho messo sul nostro profilo dell'Ondinonda www.facebook.com/ondinonda, cioè risate a catena, se volete divertirvi con questa stronzata. Andate a metterlo lì, quindi è inutile che lo metti tu, Totò. Niente, si diverte, si diverte. Non ce la farà. Senti, ma oggi come diciamo all'inizio puntata è il 6 aprile, noi non possiamo esimerci dal contattare il nostro, possiamo dirlo, credo che in tre stagioni dell'Onda in Onda sia è l'ospite più il più presente, il più presente, non diciamo dirlo. Il più importante, il più presente, va bene. E quindi ci colleghiamo direttamente da dove sarà collegato, perché oggi non si è visto al processo. Allora lui è l'ha visto, sì, sarà stato un pochettino impegnato, ma credo che stia arrivando, perché sentiamo un po' che da fuori dovrebbe, sì, dovrebbe essere col suo mezzo, cioè, di locomozione. Non so se ti rendi conto che siamo arrivati al delirio puro. Mezzo di locomozione. Cioè, un mangusta che decolla dal centro città. Totò, dobbiamo staccare YouTube, dobbiamo disabilitarlo all'utilizzo di YouTube. Comunque tu sei molto cretino, comunque fidati, te lo garantisco. Sì. Vabbè, insomma. Vabbè, non riesce a forse a raggiungerci. Vabbè, lo chiamiamo, vedi se al telefono, scusami Totò, puoi vedere se al telefono c'è qualcuno? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Presidente! Presidente! Buonasera a tutti quanti! Presidente! Scusatemi, stavo inghiottendo il chewing gum. Adesso possiamo parlare. Presidente! Benvenuto, bentornato insomma all'Onda in Onda. Benvenuto, me lo diceva sempre Rumbi quando finiva di farmi un lavoretto. Presidente, questa conversazione può essere usata nel processo del prossimo 31 maggio. Ah, c'è un processo? Sì, c'è il processo a cui oggi lei non è andato, è contumace. Ah, sì, in effetti ho sbattuto contro un tavolo e sono contumace. Un attimo. Totò. No, è divertente, presidente. Sì, sì, mi piace questo ragazzo che se ne fotte i processi e ride. Dubi dubi, sì, debu debu. Vabbè, non lo so, la finiamo con questo video idiota. Grazie. Presidente, presidente, allora, perché lei oggi non è andato al processo, il processo più famoso, insomma, quello che è sotto gli occhi di tutti? È perché sotto volevo guardarlo in TV! Ma non può guardarlo in TV, la Boccassini e gli altri hanno impedito, anzi, Brutti è liberato in periodo. Boccassini, secondo me, fa un gran gruppo insieme a Italo Bocchino, cremiaccio! Che io stimo tantissimo per... Ma Boccassini è forse perché si è infilata un paio di scarpe senza lacci in bocca. Presidente. Boccassini, bocca. Non so se avete colto. Sì, insomma, abbiamo colto come la barzelletta sulla mela. Passiamo avanti. Sì. Perché lei non è andato? Sì, no, ma lei ha saputo del sondaggio, sì. L'avete saputo? Quale sondaggio? Il sondaggio fatto fra tutte le donne tra i 20 e i 30 anni in Italia. No. Gli hanno chiesto: tu andresti a letto, anzi lei, perché noi abbiamo rispetto per le donne del PDL, sì. Crivio. Lei andrebbe mai a letto con il presidente Silvio Berlusconi? E loro hanno risposto? Il 33% ha detto sì. Il restante 67% ha chiesto ancora tranne te, tranne te, tranne te. Va bene, presidente, non sa oggi la, cosa cantavano al processo? Non posso immaginare. Al processo c'erano i giornalisti, c'erano la Boccassini, c'erano tutti. E poi c'erano tutti tranne me. Sesu, vedo Totò che non è molto convinto. Non capisco il perché. Ma come mi vede, presidente? Perché lei ha il telefono, ha inquadrato Andrea Massaro. Mi ha passato il videotelefono il signor La Fata, il mio amico siciliano. Ah già, perché prima lui ci ha chiamato col videotelefono, ricordiamo. Io mi ascolto dalle 19.32, quando finalmente Massaro capisce di essere in onda. Fino a quando 35 erano, presidente, anche passate. Guardi, ho l'orologio un po' indietro, me l'ha sbattuto la Rubi al muro. E non solo quello, Crimiaccio. Presidente, lei quello che sta dicendo, insomma, se ne assume la responsabilità, perché il 31 maggio potrebbero essere usate queste sue parole per il processo, insomma, che la riguarda. 31 maggio mi faccia pensare. Forse lei è un legittimo impedimento. Esatto. Io conferenza con la Fata sui piccoli trucchi di magia. Ho capito. E sui chupa chupa, immagino. Ovviamente con la Fata, trucchi e chupa chupa all'ordine del giorno. Presidente, ma ancora non ha risposto. Perché oggi non è andato al processo? Posso rispondere molto sinceramente? Sì. Se abbassa la musica tutto, io lo dico. Sarebbe la prima volta nella storia. Ecco, meglio rimettere la musica. Perché? Io non sono andato al processo. Perché? Perché? Con la sciungami in mano. Comunque. Sì. Io non sono andato al processo. Che schifo. Guardi, sai che non ho una risposta. Per la prima volta non so cosa dirle. Ma lei aveva un legittimo, sollevato un legittimo impedimento. Era una conferenza sulla Libia, diciamo, se lo ricorda. Lei è veramente un promemoria vivente. L'assumo come agenda personale. Era su una conferenza. Avevo visto un barcone con 30 libi, che niente male, e sono andato su. Non erano egiziane. No, perché se erano egiziane le avrei viste di profilo. Tranne te, la saluto, arrivederci. Va bene, rimaniamo in tema e ci ascoltiamo Carmen Consoli col suo bellissimo pezzo sulla scandalo Bunga Bunga, che è Cercasi. Cercasi avvenente, signorina ben fornita, intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Cercasi apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cha cha cha. Al colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario fascinante. Un'opportunità di vita più agiata. Donna impenitente e ladra, cercasi. Donna santa incensurata, cercasi. Deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Come paceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, ciak motore, azione, poi sei gira. O forse ti interessa la politica? Ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica? Al giorno d'oggi tra i due sessi non v'è differenza. Il bel paese premia chi più merita. Thank you. volto sembri assai portata per la lirica, o forse ti interessa l'astrofisica. Oggi non posso venire al processo perché devo vedere che dati. Sì. Allora, quello è un impegno di Stato e non si discute. Sì. Se invece lui dice, oggi non posso venire al processo perché devo portare il Labrador a sverminare, sì, allora vieni di corsa che ti facciamo un mazzo così. Quello è, sì, ecco. Però gli dico, tra questi due estremi, sì, ci saranno anche le situazioni intermedie. Sì. Se lui dice, per esempio, sì, oggi non posso venire perché devo portare Gheddafi a sverminare, sì, è un casino. Certo. Domani Berlusconi ha invocato il legittimo impedimento perché purtroppo, e secondo me molto giustamente, lui deve andare a ritirare la pagella del primo quadrimestre di Ruby Rubacuori e poi deve anche parlare col professore di ginnastica perché l'altro giorno Ruby ha usato un bidello per farci attorno la lap dance. Si dice, oggi non posso venire, sì, sì, sì, perché devo vedere Rebecca, sì, lui sa, che per ora è solo una escort, ma fra qualche mese diventerà ministro. Sì. E allora gli... Insomma, vabbè, puoi staccare. Insomma, è bello perché ci sta. Si stava mixato alla comunque, fine con la musica. Vedi che hai fatto una cosa geniale in un mondo di cazzate come io faccio oggi. Sempre. Ma tu fai sempre cazzate. Ogni quando tanto ci siete voi. Però senti, ma perché non trasmettiamo quel servizio sulla raccolta differenziata? Che non vediamo l'ora. Più tardi. Più tardi. Ah, più tardi. Hai detto più tardi. Più tardi. Più tardi. Più tardi. Allora. Senti, Andrea, io direi di aprire una nuova rubrica dei consigli di viaggio. Allora io consiglio di andare al Cioffoli. No, Fidelio sono no. Sono Fidelio Cosimano. Ma non può tornare Fidelio se è stato ucciso. È stato ucciso Fidelio. Aspetta, c'è una cosa meravigliosa in questo video che poi non abbiamo fermato. C'è un talk show. Sì, ma non puoi mandarlo tutto. Vi faccio sentire solo questa parte. Il collettivo Giancarlo Mattello è d'accordo a trasmettere questo video. No, non c'è. No, che schifo dire. Cosa vi lega? La traduzione. Non lo si può dire. Tu possiamo dire, amiamo molto l'aria, l'altra metà del cielo, che sono le donne. È Berlusconi che parla. Sì. Je vais destin pour la chaîne, n'est-ce pas, pour notre chaîne, que les chaînes que vous avez lancées. Ora, come lo traduci questo? J'espère. No, c'est absolument possible. C'est... Non lo so, continuiamo a sentire il francese. Totò, guarda che non è cazzata assurda. Totò, ma te lo vedi a casa? Vabbè. Siete proprio delle bestie Totò, da ti Soma. Ti rendi conto che noi dobbiamo fare una puntata e tu mandi dei video che puoi siete vedere. Siete delle vuoi. Bestie da Soma, ma non importa, vai. Ecco, togli la musica, bravo. Senti, consigli per il viaggio, Andrea. Tu dove consiglieresti alla gente di andare a fine mese? Ma che Andrea, le dai consigli di viaggio? Messina. È il solito porco. Cioè, è veramente. Che ho detto? A me. Perché a me? Aspetta. Ecco, intanto aspetta. Tu crei un incidente diplomatico con la provincia di Messina se dici il solito porco non motivandolo. No, infatti, è vero. Allora, spiegaci Andrea, perché dovremmo andare a Messina? Adesso ne parli, però. Certo. Perché? E fai sentire anche. Prendere i traghetti. Metti l'audio. Puoi prendere i traghetti. Sì, sì, sì, ma metti. Lo so anche i traghetti. Immagino che avrà preso di tutto, ma metti l'audio. Puoi prendere i traghetti. Puoi prendere i traghetti per andare. Sta poi rossendo. A Calabria. A trovare la fidanzata di Totò. La fidanzata una moglie, no. La moglie di Totò. Ma senti, può essere che abbiamo in linea la moglie di Totò in esclusiva? No, non ce controllo un attimo. Io, no, io non ce credo l'abbiamo. Che non l'abbiamo in linea. Non ce l'abbiamo. Perché non ce l'abbiamo? Veramente, perché abbiamo Caparezza. Ah. Sei veramente una persona, un censore. Siamo, ascoltiamo siamo. La marchetta di Topolino e poi sentiremo la moglie di Totò. Puritano bacchettone, ma si filma mentre scoppa con tuniche da stagone. fa le pece quando si trova in maretta. Amicizia ovunque, anche nei tronchi di cipeggio. Amicizia ovunque, chiama le tronche per qui pro quo. Perché lui si attacca a tutto come fa un porno vivo. E te lo mette dove sta un porno divo. Nelle scuole, nei locali, nei commenti su YouTube. Puntini, puntini, lol. Raga. Eccoci tornati in diretta dopo la marchetta di Popolino. Intanto suonano al citofono e siamo tornati in diretta. Io saluto la mia ragazza Sonia all'ascolto, che ha detto che la puntata è stata un po' sconclusionata, ma comunque geniale a tratti, oserei dire, lo dico io da solo, e soprattutto per i contributi in risata che ci ha dato il buon vecchio Totò. E Totò, quanto pare siamo pronti per mandare il tuo servizio, quello che hai aspettato per tutta la puntata. Intanto allora, c'è ancora, sì, c'è gente che arriva battendo le porte. Hai la pressione molto alta, fregandosene proprio altamente. Devi stare calmo. No, no, no, ma il problema è sempre. Sembra che parli da dentro un cesso, quindi siediti. Pronto, mi senti? Oh, molto meglio, molto meglio, devo dire. No, è che Totò si apre i microfoni, né che dice niente. Io entro in regia e facciamo casino. Ma io il microfono ce l'ho aperto perché siamo in trasmissione. Ma scusa, ma ci sei anche tu in questa trasmissione? In questo post-tribolo. In questo post-tribolo, sì, l'altra volta sei arrivato e hai trovato me Andrea, ma è un caso. Perché no, no, lui... no, cioè lui, nel senso, io sapevo fosse il vostro programma. Adesso c'è anche Totò che parte. No, lui c'è sempre stato come la canzone di Ligabue. Senti, Sonia, la fate col padrone, bravo. Sì, esatto. Sonia, comunque devi girare quel tasto lì del telecomando, quello a destra, ecco, grazie. Scusa, sono comunicazioni di servizio. Senti, Totò, se sei pronto, come fai a vedere il telecomando della tua ragazza che è a casa e ha il telecomando in mano? Per lo stesso motivo per il quale Silvio Berlusconi e l'onorevole La Fata riuscivano a vederti dietro il vetro, pur essendo al telefono. E adesso ci sentiamo e guardiamo questo bellissimo ragazzo di nome Salvatore, di cognome Witty Scaccia, su teletermini.it con il servizio sulla raccolta differenziata, pronti ad aprirvi i maroni in otto. A un mese di distanza dall'inizio della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere del centro storico, Teletermini vuole andare in giro a chiedere porta a porta alla gente se riesce a fare la raccolta differenziata, se ha delle difficoltà con i vari giorni assegnati per i vari tipi di immondizia differenziata, se hanno i sacchetti, insomma, se ci sono difficoltà nell'effettuare la raccolta differenziata. Andiamo. Allora signora, qui siamo in via Roma, la via più bella di Termini, tutto quanto, e anche qui si fa la raccolta differenziata. Lei la riesce a fare? Certo, vuol venire a vedere? No, perché dico, riesce a farla, sì, quindi, sì, regolarmente. Insomma, si riesce a stand, perché abbiamo le cucine piccoline, non abbiamo recipiente, e si sa com'è, dovrebbero fare, mettere il bidone differenziato, ognuno avrebbe un po', perché i nostri spazi sono piccolini. Ma lei riesce comunque il giorno, il lunedì, il martedì, passano regolarmente? Sì, tutti i giorni passano. Quindi sì. Non ha problemi di orario, cose, riesce a farla. Quindi soltanto però magari se ci fosse qualche cassonetto, che uno magari... Meglio, lei pensa se si mangia un po' di pesce, tenerla lì 2 o 3 giorni non è mica tanto gradevole. Certo. Pazienza. Quindi quantomeno per l'umido. Dobbiamo accomodare. In quella via, Sant'Agata, se la prendono tutti i giorni. Quindi lei non ha problemi, riesce a farla differenziata? Solo, soltanto raccoglio il vetro, che ce l'ho a mio figlio, mette in una cassetta, non lo so. Ma dico per quanto, perché molti sono lamentati che con l'umido non ci riescono, perché l'umido sarebbe rubisce, le bucce, le cose, che effettivamente... Quando c'è una cosa, metto uno barcone, quando c'è una cosa deodoro, diciamo. Però riesce. Se la prendono, se la prendono. Se la prendono? Sì, sì. Lei abita pure qui? No, no, io no. No, quello è Birello. No, no, no, siamo assieme. Ah, okay. Siccome ho due aperture, vieni a guardare, perché alcune volte ci avvicina levare, lei è... Una vergogna, è una vergogna, perché si piglia una spazzatura, perché mettono tutte queste cose qua? Ah, perché ci sono alcuni che invece la buttano, l'immondizia, continuano a buttarla lo stesso, indifferenziato. Siccome veramente in questa via non ci abita nessuno, no? Si è lamentato solo il signore che ha la scuola, diciamo, e ce l'ha fatto, ce l'hanno preso, ora non ce n'è stamattina. Qui siamo nel quartiere, diciamo, di Porta Palermo, sì. Qui viene fatta la cosa, passano regolarmente? Sì, passano regolarmente. Con i giorni assegnati, e ora io non ricordo effettivamente. Vabbè, queste sono cose da donne, diciamo. Infatti, sono cose da donne, però dico funziona regolarmente. Fino a stamattina regolarmente sono passati per l'umido, poi c'è il giorno che passano per la plastica. Con l'umido che passano due volte a settimana ce la fate? Oppure avete qualche problema? Sarebbe il caso di, non so, un cassonetto per l'umido anche oltre in quartiere? Io penso che bisogna adeguare le famiglie ad acquistare dei contenitori che mi pare che ci siano, adatti appunto per poter... Per gli odori, insomma. Infatti, per gli odori magari da mettere sui balconi, in modo tale da posizionarli là e poi aspettare il giorno in cui vengono ritirati. Sì, sì, tutti i giorni passano. E riesci a farla? Dico, ci sono problemi per l'umido, perché molti sono lamentati e con l'umido... No, no, io per nessun motivo, non ce n'ho problemi. Quindi lei non fa più il sacchettino quello con tutte cose insieme, lo butta? No, no, già un mese che c'è questa, diciamo, si deve fare differenziare, ma no. Riesci a farla? La riesco, sì. Allora, inizialmente ho provato anch'io a fare la raccolta differenziata, anche se qualche problema è sorto. È sorto principalmente un problema che secondo me è fondamentale. Qua è una zona un po', andiamo un po' più in periferia, quindi la campagna, e inizialmente mettendo la spazzatura fuori o l'umido fuori, ad esempio, abbiamo visto avvicinarsi topi, perché la spazzatura, l'orario dovrebbe essere fino alle 9 la raccolta, magari passano alle 11:30, quindi non dico per colpa di chi, però diciamo magari hanno pochi mezzi a disposizione, quindi non riescono a passare in orario. E quindi non riesce a farla completamente, oppure non riesce a farla col porta a porta, lo fa diversamente? Allora, attualmente mi sono ributtato, diciamo, nei cassonetti, ecco, quindi utilizzo più i cassonetti che la raccolta differenziata, la uso solamente per il cartone, che è una cosa che bene o male può stare anche fuori un po' di più, e qualcos'altro, la plastica ad esempio, ma umido e compagnia varia vanno tutte poi nei cassonetti, ecco. Perché altrimenti poi ci sono questi problemi di topi e altri, diciamo, insetti vari, sì. Sì, diciamo che è l'inizio, quindi ancora ci dobbiamo un attimo abituare a questo nuovo sistema, anche se devo dire che comunque sono contento, perché questo sistema che sto adottando, porta a porta, sì, il porta a porta, credo che sia l'unico sistema forse che possa veramente funzionare, quindi possa tra virgolette costringere le persone a fare veramente questa raccolta differenziata, che non è comunque secondo me completa al 100%, perché vedo che la raccolta che viene effettuata su rifiuti come ad esempio il cartone, la plastica, quindi le bottiglie in plastica, i rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati. Ad esempio manca la raccolta del vetro, della lattina, che anche questi sono comunque rifiuti abbastanza presenti nelle abitazioni. Riesce poi a portarli nei cassonetti differenziati, oppure? Questo sì, riesco a portarli, anche se è difficile trovarli perché ce ne sono pochi di questo tipo, e quindi non si riesce a fare proprio una raccolta al 100%, però credo che già sia un primo passo verso... Per l'umido due volte a settimana va bene, oppure... Per l'umido sì, per quanto mi riguarda va bene due volte a settimana, e anche la distanza tra un giorno e l'altro va bene, perché più o meno sono 2-3 giorni, quindi potrebbe andare bene. E, quindi l'unico appunto sul vetro e sulle lattine. Vetro e lattine, che secondo me è anche importante iniziare a differenziarle, perché in ogni caso sono rifiuti ingombranti, perché soprattutto sono quelli che si possono riciclare al 100%. Infatti al 100%. Poi per il resto a meno, per il momento mi trovo abbastanza. Anche a 88 anni. Non è giusto che mi metto a pagare amatrici che avevamo i contenitori e li levaro. Ma di cosa passano porta a porta, no? No, completamente, perché pure con noi la mettiamo mattina 6, ma là sono brucca, perché dipende quello che noi ci mettiamo, perché giustamente se la polizia pisce, non posso tenere 24 ore oppure 48 ore quando mi tocca ritarla. Insomma, è davvero una situazione un po' particolare. Sì, comunque, sì, sì, sì. Cioè, io ero molto innamorato del discorso rupisci con la 24 ore, c'è il resto feto. Sì. E niente, sì, sì, vabbè, sì. Capita. Argomenti che capita di trattare nella vita di ciascuno di noi. È bello sapere che io posso contare, guardalo, sul mio compagno sì. di radio. Trasparente. Ma, ecco, mettete la radio, cioè mettete, scusate, la webcam dal sito radiocentrale.it, guardate, ecco il mio compagno radiofonico, il meglio del meglio. Però sai che Andrea trasparente rende molto, rende sì, moltissimo. Sì, decisamente. Senti Totò, chiedo a te allora se hai un argomento di cui trattare, visto che questa puntata l'abbiamo tirata come un carro tirato in un mulo, perché non avevamo poi questi argomenti grandiosi di cui parlare, ma siamo andati molto a braccio. Spero che comunque i pochi ascoltatori, o molti, chi lo sa, che sono rimasti in linea, abbiano passato comunque un'ora e mezza gradevole con buona musica, buone cazzate e qualche risata. E anche un po' di informazione. È un po' di informazione che non guasta mai, visto che tendono a non informarci in questo mondo odierno. Comunque la cosa brutta è che sì, si fa la raccolta porta a porta, quindi il comune sta inquietando la gente per fare la raccolta differenziata, però per i turisti che vengono a Belvedere non ci sono i cassonetti differenziati, quelli piccoli cestini, no? E quindi si butta tutto là. Io ho mangiato un gelato, poi concludo il servizio praticamente con un gelato che ho finito di mangiare, e butto sì. l'umido, ovvero la scoccia del cannolo. Sì, la scoccia del cono. Insieme alla carta, al tovagliolo sì. e insieme alla paletta di plastica, li butto nello stesso cestino. Quindi ci rompono le scatole la gente a casa, però fondamentalmente. Ma poi non c'è bisogno di essere turista, perché chiunque si trovi a passare. Sì, di sì, lì. No, in piazza, insomma, la piazza principale della città, si butta poi tutto nello stesso cestino. Esatto. Senti, io voglio. Così ci copisci federatesi. A proposito, bravo. Io voglio concludere. Quanti minuti abbiamo ancora, Totò? Niente, 40 secondi. 40 secondi. E allora io e il mio amico Andrea Massaro qui accanto a me sì. e Totò Scaccia dall'altro lato vi salutiamo, vi promettiamo puntate sempre più scoppiettanti e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova bella, spero, puntata dell'Onda in Onda. Stay tuned e buon weekend a tutti. Tra poco il reggae dopo la pubblicità.